Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, sono le 11.09, io sono qui, buona giornata, abbiamo Filippa Oreggi, regge la parte tecnica, e Laura Vanossi in redazione. Cicciotelli, Paffuttelli, Rotondetti, Burrosi, Morbidini, tutte parole che forse ne nascondono una molto di moda e forse più grave, almeno stando a sentire l'allarme dei pediatri e di chi ha a cuore la salute dei nostri figli, sovrappeso se non francamente obesi. L'epidemia dei chili in più negli ultimi 20 anni si è abbattuta, lo sappiamo, un po' su tutte le popolazioni occidentali e non ha risparmiato neanche i più piccoli. E se noi mamme, diciamoci la verità, facciamo un po' fatica ad accorgerci che il nostro bambino sta diventando troppo morbido, ci pensano i dati di alcune ricerche, come l'indagine Occhio alla Salute, che è una delle attività del progetto Sistema di Indagini sui Rischi Comportamentali in età 6-17 anni, promosso dal Ministero della Salute e realizzato con la collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica. La ricerca è stata effettuata su oltre 42.000 bambini di terza elementare, quindi circa 8 anni, e fornisce risultati non molto diversi dall'edizione del 2008. Stile di vita a rischio per i bambini italiani. Il 9% non fa colazione. Il 30% la fa non adeguata. Un bambino su 4 non mangia quotidianamente frutta e verdura. Circa il 50% consuma bevande zuccherate o gassate nell'arco della giornata. Un bambino su 2 ha la TV in camera. Un bambino su 5 pratica sport per non più di un'ora a settimana. Il risultato è che il 23% dei bambini è in sovrappeso e l'11% è obeso. Ma spesso i genitori non se ne rendono conto. Tra le mamme di bambini in sovrappeso o obesi, il 36% non ritiene che il proprio figlio abbia un problema di chili in più. E a sviluppare alcuni degli aspetti emersi da Occhio alla Salute ci ha pensato Zoom 8, un approfondimento curato dall'INRAN. E in linea con noi abbiamo la dottoressa Censi, ricercatore INRAN, che vi ricordo è l'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione. Buongiorno dottoressa Censi, benvenuta. Buongiorno. Dottoressa, voi a quali risultati siete arrivati con questo Zoom 8? I dati sono molti, posso sintetizzarne alcuni che ci suggeriscono delle azioni pratiche. Brava. Ad esempio, il 70% dei bambini non ha l'abitudine di andare a scuola a piedi. Il tempo trascorso dai bambini giocando all'aperto dipende soprattutto dalla sicurezza dell'ambiente circostante l'abitazione. Inoltre i genitori denunciano la mancanza di strutture adeguate alla pratica dell'attività fisica, e questo soprattutto al sud. Sì. Poi le conoscenze su una corretta alimentazione sono risultate piuttosto scarse, specialmente al sud, e soprattutto per quanto riguarda il consumo di frutta e verdura e quello della merenda. Poi sono risultati anche molto interessanti i suggerimenti dei genitori. Ecco, cosa dicono? Cosa suggeriscono i genitori? Soprattutto l'aumento di programmi di educazione alimentare a scuola nella maggior parte dei casi, e anche la riduzione della pubblicità sugli alimenti confezionati. E poi anche suggeriscono di aumentare le ore di attività fisica svolte a scuola e di potenziare le strutture sportive pubbliche. E quindi passando dal suggerimento alla pratica, voi che siete esperti, che il fenomeno lo studiate, cercate anche delle strategie, quale potrebbe essere il suggerimento da dare ai nostri genitori all'ascolto? Soprattutto poi farli muovere, no? Questi bambini, farli muovere il più possibile, fare più attività fisica e molta meno TV e videogiochi. Sì. Poi per attività fisica bisogna intendere che non bisogna semplicemente fare sport, ma bisogna aumentare l'attività fisica quotidiana in ogni occasione, farli camminare, correre, farli fare le scale a piedi, giocare all'aperto. Ecco, che se ci mettiamo possibile insieme fa bene a loro e fa bene a noi, dottoressa. Ecco, prendiamo due piccioni con una fava. Dottoressa Censi, io la ringrazio per essere stata con noi, le auguro una buona giornata e buona ricerca. Grazie, arrivederci. Ecco, io vi ricordo, parlando dell'IRAN, un sito che vi invito a consultare è sapermangiare.mobi, davvero ricco di consigli e di indicazione. Bene, questi sono i temi di cui ci occuperemo oggi: la dieta dei nostri bambini, perché stanno diventando troppo rotondi, addirittura alcuni obesi. Noi sappiamo che il sovrappeso dei bambini si traduce in un aumentato rischio di ipertensione ipertensione, diabete, sindrome metabolica, sono degli aspetti molto importanti. Insomma, da piccoli si mettono un po' le basi anche per la salute di quando si cresce. Ma oggi è il secondo martedì del mese e come sempre Yolanda e Veronica, le nostre mamme blogger, sono qua in studio con me. Ciao, ciao Nicoletta, ciao a tutti. Buongiorno. Allora, io vorrei chiedervi se il problema dell'alimentazione è un tema di cui le mamme discutono anche sui blog, Yolanda. Ma assolutamente sì, è un problema molto sentito, sia per quando sono piccoli, che allora la quantità di latte, che latte uso, eccetera. Poi iniziano le pappe, devono essere equilibrate, che cosa ci metto dentro, come le faccio, eccetera. Poi man mano i bambini crescono, allora la merenda gliela do, non gliela do, cosa gli do a scuola, cosa non gli do a scuola, e comunque sentono molto anche questo fatto delle, per esempio, delle pubblicità che sentivo prima, che di questi prodotti confezionati a tutte le ore, e devo dire che questo problema lo discutono anche molto anche lì. Ecco, che vengono spesso, ne parlavo prima con Veronica, dati un po' come premio, vero? Sì, cioè sì. Noi siamo abituati a premiare i bambini, ti do la caramella, ti do la merendina. Io sono rimasta molto colpita dal fatto che a mio figlio all'asilo, prima alla scuola privata e successivamente alla scuola pubblica, sia stata data la caramella come premio per rinforzo positivo comportamentale. Onestamente avrei preferito il famoso adesivo con la stellina d'oro, come si usa. Non mi aspettavo che la scuola insegnasse a mio figlio a mangiare la caramella zuccherata, per esempio, ma non voglio aprire una polemica con la scuola, voglio parlare di questo in generale, anche noi genitori a volte, no? Se fai il bravo, ti do quella fetta di torta, se fai il bravo ti do il biscottino, va bene, perché non dobbiamo essere dei nazisti, però insomma con un po' di intelligenza. 800 24 00 24, mi ero dimenticata di darvi il nostro numero verde che come sempre è a vostra disposizione, i messaggi al 349 238 6666, scriveteci, intervenite, abbiamo il nostro profilo Facebook. Insomma, i temi, no, che di cui discuteremo oggi sono l'alimentazione troppo ricca, mangiano troppo, sono sedentari, però care mamme, noi abbiamo ancora l'idea che il bambino morbido sia un bambino tutto sommato in salute, no? Ma il momento più felice della signora Pau Tasso qual è? E quando gli telefona al parente e gli dice: guarda, mi dispiace, oggi a pranzo non riesco a venire, no? E lei: oh signor, e alle 12:10 mi avvisi, e ora le scatolette di tonno cosa faccio? Le butto. In Calabria si mangia alle 2. Mia madre alle 4:15 era in piedi davanti ai fornelli a tutto gas. Io mi svegliavo con l'odore di soffritto di cipolla, che a confronti il gas nervino è deodorante per le ascelle. Perché la mamma calabrese non ti invita a pranzo, ti sfida. Vuol vedere quanto resisti prima che sviene sul tavolo. Ormai erano 6 ore che stavamo mangiando, avevamo finito di pranzare che erano le 8 di sera. Mia madre appena sentito la sedia che si sfilava da sul tavolo fa: ferme tutti, che la cena è pronta. Non l'avesse mai detto. Ci aveva dato una porzione di melanzana a tutti quanti, che le porzioni di mia madre sono delle teglie di 5 kg e mezzo l'una, che la signora Pautasso con una porzione ci fa il pranzo di nozze del figlio Giampaolo. L'unica volta che mia madre era stata clemente con Usoco, perché ha detto: sono i bambini che il colesterolo alto, zio Caratozzolo non si rassegnava. Ha tirato fuori l'arma segreta, il peperoncino desoverato, che è piccante, ma così piccante che la teglia si è allargata, le lasagne si sono moltiplicate. Mia madre mi ha guardato e mi fa: Franco, oh Franco, prendete e mangiatene tutti, che sennò da sto tavolo non si alza nessuno. Franco, oh Franco, ciao! Ciao, come stai? Ma io benissimo, perché quando ti sento, guarda, mi viene subito il buon umore. Parliamo della dieta di questo bambino calabrese. Ma diciamo che in Calabria, cioè, è proprio usanza, non è usanza, è tradizione, non è usanza, è tradizione. Cioè il bambino appena si alza la mattina, non è che tu fai il latte. Sì, il latte si fa anche, perché il latte bisogna darlo ai bambini, anzi qualcuno dice il latte non bisogna darlo perché il latte è felice. Assolutamente, il latte contiene calcio, per cui al bambino bisogna darlo al latte. Però da noi il latte si arricchisce di che cosa? Non della girella motta, ecco, ma della frisella col miele, la frisella col burro, pane e marmellata. Ecco perché al sud la colazione non è una colazione, ma è un è un pranzo, un mezzo pranzo. Questo ai nutrizionisti piacerebbe, perché il problema, almeno dai dati di Occhio alla Salute, rilevano che i bambini fanno una colazione, o non la fanno, la fanno in modo non adeguato, per cui lì le mamme calabresi hanno ragione, Franco, a rinforzarla un po', no? Se va bene la frisella col miele, eccetera. L'importante, magari, forse la teglia di lasagne a metà mattina, vabbè, è troppa. Cioè, la teglia di lasagne, in quello che abbiamo appena sentito, è anche un'esagerazione. Cioè, è costume fare questo, perché quando si prepara in casa, non è che se siamo in due persone, cosa si fanno? 180 grammi di lasagne? No, non va bene. Come si la signora Pautasso? Per quale motivo? Perché la lasagna può stare poi anche nel frigo, che ne so, mezza giornata, si può finire la sera quella che avanza, perché per fare la lasagna non è che ci metti 5 minuti, cioè è un lavorone, cioè è un impegno, è un'arte, è come fare, che ne so, un quadro, ecco. Per cui facciamone tanta, cerchiamo di farla durare il meno possibile, soprattutto. Senti Franco, però tu, a suon di teglie di melanzane e peperoncino, sei cresciuto e bello, sano, fresco, creativo, e anche adesso stai preparando una versione molto originale sull'Unità d'Italia, o sbaglio? L'Italia vista da un calabrese. L'Italia vista da un calabrese. Sto preparando uno spettacolo nuovo che parlerà dell'Italia, ma di quanto siamo italiani noi, perché noi quando andiamo all'estero, è vero che, come si dice, l'erba del vicino è sempre più buona, no? Quando sei qui, dici, oh, i francesi, che bello, poi magari vai in Francia e ti accorgi che l'Italia ti manca, perché quando vai in una panetteria in Francia non è come in Italia, che ti danno il pane dentro la busta di carta, e poi c'è la busta di nylon per non far bagnare la carta se piove. In Francia non è così. In Francia, soprattutto d'estate, mangiare il pane è pericolosissimo. Ma come? Perché te lo mettono sotto l'ascella. E se capita che il tuo lavoro è quello di fare un lavoro pesante, che fa il camionista, è già, cioè, condito, immagina quella baguette dove va a finire. Non possiamo pensarci, ma intanto verremo a vederti. Quando vai in scena? Sì, il debutto sono i primi di gennaio al Teatro di Vercelli, poi sarò a Cardinale di Torino e poi via via via così. Chissà quante signore Pautasso verranno anche a vederti. Tantissime. Soprattutto, anzi, io direi alle signore Pautasso, signore Pautasso oppure signore Laura, come si chiamano, come si, cioè, questo vale per tutti, sì. Io la penso così, ai figli non diamo la girella motta, sì. Mandiamoli a scuola con un panino fatto in casa, mandiamoli a scuola a piedi, Franco? Piedi, a piedi, non accompagniamoli, facciamoli diventare indipendenti fin da bambini. Certo, non è che tu un bambino di 6 anni gli fai fare 6 km a piedi, però se la scuola, quasi sempre uno manda il proprio figlio a scuola nel posto più vicino, che c'è, cioè, nel quartiere. Sì, dovrebbe essere di quartiere, quindi con il suggerimento di Franco è il panino. No, magari la frisella. Ma panino, frisella, mandiamo la scuola a piedi. A piedi, e vai. E anche un po' di peperoncino. E vai. Anche un po' di peperoncino. E dai. Senza troppa cioccolata, anche se fa bene. Però poca, non poca. Troppa. Grazie Franco Neri per essere stato con noi. Un abbraccio a te. Però noi abbiamo anche un'altra ricetta, oltre che il panino, la frisella e un po' di peperoncino. Una sequenza di numeri per un cambiamento di rotta. 5, 2, 1, 0. 5. Le porzioni che ogni giorno bisognerebbe assumere di frutta e verdura. 2 ore al giorno è il massimo tempo consentito per stare di fronte a schermi di TV, video, eccetera. 1 ora ogni giorno andrebbe dedicata al movimento. Non bastano 2 ore di ginnastica alla settimana. 0. Sono le bevande zuccherate. Beviamo acqua, spremute di frutta, latte parzialmente scremato. Questa è una sequenza di numeri che è stata ideata dall'American Academy of Pediatrics e pubblicata su Pediatric. Questa sequenza però è stata ripresa dal Gaslini di Genova, che con Federpharma lancia una campagna per insegnare ai bambini a mantenersi in forma giocando. E in linea con noi abbiamo la professoressa Vignolo. Buongiorno. Buongiorno. Responsabile del Centro Obesità Istituto Gaslini di Genova. Professoressa, intanto ho qua con me le nostre due mamme blogger che sono state molto incuriosite da questa sequenza di numeri e vogliono già applicarla anche loro. Assolutamente sì. Veronica, sei... Io avrei una domanda. Ecco, perché Veronica è la mamma della domanda. Allora, io vorrei sapere se è vero che i bambini più piccoli hanno bisogno del latte intero e non parzialmente scremato, perché chiaramente in questo vademecum è indicato il latte parzialmente scremato. Professoressa Vignola, la mettiamo subito al lavoro. Sì, i bambini piccolini fino a 2 anni è bene che prendano il latte intero, perché devono avere un apporto più abbondante, diciamo così, di grassi, però dopo, per lo sviluppo del loro sistema nervoso, del cervello, eccetera. Poi dopo è importante invece pensare che il latte parzialmente scremato possa essere una buona scelta, una scelta forse migliore dell'altra. Grazie. Professoressa, studi internazionali hanno dimostrato che la semplice imposizione di una dieta non è efficace nei più piccoli, anzi è spesso controproducente, e per ottenere risultati a lungo termine è necessario seguire quello che gli esperti definiscono un approccio comportamentale. Voi vi siete messi all'opera, avete chiesto la collaborazione di ben 296 farmacie. Ci vuole descrivere un po' il vostro progetto? Sì, il nostro progetto... Che è una campagna, ecco. È una campagna, sì, è una campagna che abbiamo organizzato insieme seguendo questi principi che ci vengono dalle scienze comportamentali. Il primo è stata la scelta di messaggi semplici relativi a comportamenti che fossero sicuramente legati al rischio di sovrappeso. Ed sì. Ecco qui 5210. L'altro punto importante della nostra campagna è aver scelto il farmacista come affidandogli un po' un ruolo di educatore, nel senso che evidentemente la sua esperienza, la sua autorevolezza, l'appartenenza allo stesso contesto sociale ne fanno una figura importante per un lavoro di questo tipo. L'altro punto importante è stato il coinvolgimento dei genitori. I genitori debbono assumere questo ruolo di modello che è essenziale, naturalmente accanto a tutti gli altri grandi che sono vicini al bambino, quindi diciamo così, gli insegnanti per esempio, eccetera, i nonni. Abbiamo deciso di usare dei messaggi incoraggianti, messaggi positivi, il raggiungimento di premi, di lodi per ogni singolo comportamento rispetto ai 5210 che viene messo in atto. Quindi un rinforzo positivo un rinforzo positivo. Allora, e poi credo l'ultimo aspetto importante è non focalizzare la campagna sull'obesità, sul peso, ma focalizzarla sui comportamenti. Ecco, perché il problema non è perdere qualche chiletto, vero professoressa? No, il problema è cercare di capire qual è lo stile di vita, e dico vita, non dico solo alimentare, perché naturalmente i ragazzini arrivano tantissimi messaggi che ci dicono che i bambini non si muovono. È vero, ne abbiamo dedicato anche una puntata qualche settimana fa. È vero, dobbiamo ricreare degli spazi, insegnare di nuovo ai nostri bambini il piacere del gioco, il piacere anche della lotta con i compagni, come dice il dottor Confalonieri. Adesso è tempo di andare a sentire i mercati, il meteo, poi di nuovo insieme ci occuperemo anche non solo di bambini piccoli ma anche di bambini un pochino più grandicelli. Restate con noi con le vostre domande. Cicciottella è una bambina fatta a forma di bignè che non vuol diventare un grissino più magro di te. Tieni. Cicciottella ha esagerato, si è mangiata l'energia, non ne ha più per cucinare la pasta asciutta. Per scaldarsi il caffè latte deve scendere nella via e rubare raggi al sole con un po' di fantasia. Cicciottella di Loretta Goggi, ve la ricordate? Yolanda te la ricorda? Assolutamente sì, naturalmente. Eppure una mamma su 4, secondo i dati, non si accorge che il proprio bambino è in sovrappeso. Veronica, tu hai la sensazione di, così anche chiacchierando con le tue amiche, navigare litigando su internet e che ci sia questa difficoltà, insomma non sappiamo se il nostro bambino sì. è morbido o secco. Beh, intanto vabbè, noi siamo italiani, per cui io ho anche memorie familiari, amare significa nutrire, no? Sì. Che, se vogliamo, un concetto molto primitivo, anche molto vero, no? Perché la madre ha questo rapporto funzionale quando nasce il bambino legato al cibo e all'alimentazione, ed è una cosa che poi ci portiamo dietro, perché il nostro ruolo di madre è riempire il frigo e svuotarlo sostanzialmente, e quindi poi ognuna di noi declina questo imprimatur iniziale in base a quello che è il proprio stile di vita, la famiglia, il figlio che si trova davanti. Io devo ammettere che ne parliamo tanto di questi problemi di alimentazione, ed è un problema che ci segue anche se i figli crescono, l'esigenza cambia, ma continuiamo a parlare di questi argomenti. È vero, ma anche quando torniamo a casa noi dalle mamme, che cosa hai mangiato? Mangi? Sì, sì, proprio... Yolanda. Sì, devo dire che infatti uno dei grandi successi anche su web sono questi siti fatti dalle mamme, dove danno proprio le ricette che danno ai loro bambini. Con tanto di foto bellissime, sì, con tanto di foto e tutto, e sono molto seguiti. Professoressa Vignolo, io sono per una dieta che metta d'accordo tutti, grandi e piccoli, perché l'idea di cucinare per il bambino, per il papà, per l'adolescente, eccetera, mi stressa. Lei è d'accordo? Assolutamente. Una cosa che vada bene per tutti. E tutti a tavola mangiano le stesse cose, se no doveva finire il ruolo di modello dei genitori. E poi un bambino, però dobbiamo riconoscergli il diritto di scegliere se e quanto mangiare di quello che gli proponiamo, nel senso che questo sicuramente è uno dei suoi diritti fondamentali, credo. Senta, professoressa, lei mi ci deve aiutare. Come faccio a capire che il mio bambino sta diventando troppo grassetto? Direi che si vada al pediatra. Bisogna andare dal pediatra anche quando il bambino sta bene, almeno una volta all'anno, no? Perché quello che ci deve preoccupare è se aumenta un po' troppo di peso. Insomma, sì. 3 kg in un anno cominciano ad essere già abbastanza, e quindi non significano che sta scoppiando di salute, ma significano che sta andando un po' fuori pista. E allora è bene chiedersi perché succede e come intervenire. Una psicologa, nostra amica, ci ha detto che potrebbe dipendere da carenze affettive. Ma è matta, dottore, non c'è bambino più amato di lui, viviamo per lui. La verità è che Paolone è solo goloso e disubbidiente. È la prima volta che ci separiamo da lui e siamo tanto addolorati. Sia severo, dottore, severo. E tu la ginnastica non la fai? No. Torrone, noccioline, salame. Caramelle, cioccolato. L'onza, provola. Würstel. Krauti. Ti sei mangiato un supermercato? Dove la tieni tutta questa roba? Parla! Vai! Abbiamo ascoltato un breve estratto, qua ridono, però dal film 7 kg in 7 giorni viene da sorridere, ma c'è un fondo di verità, no? Perché i bambini che mangiano un po' a ruota libera e soprattutto fanno pochissimo sport. Voglio parlarvi però di un altro progetto, oltre a quello che vi ho anticipato, del Gaslini di Genova. Si chiama EAT, che sta per Educazione Alimentare Teenagers, perché oggi vogliamo, come vi avevo anticipato, occuparci anche dei bambini un pochino più grandi, quelli che frequentano le scuole medie. Un'equipe di medici del Policlinico San Donato ha ideato un progetto proprio destinato a loro, quindi se avete dei ragazzini tra i 12 e i 15 anni, 800 24 00 24, perché in linea con noi abbiamo il professor Lelio Morricone, primario di diabetologia e malattie metaboliche all'ospedale San Donato. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Professore, la vostra iniziativa mira proprio a riprogrammare, direi, no? lo stile alimentare dei ragazzi, coinvolgendoli in tante attività e tenendoli monitorati, utilizzando, e questo mi è piaciuto molto, degli strumenti di comunicazione in linea con il loro modo di vivere e di pensare. Ci racconta lei quello che state organizzando e facendo? Assolutamente sì. Noi abbiamo avuto l'intenzione di provare ad intervenire su questo, che è un grave problema del sovrappeso e dell'obesità nell'età più giovanili. E per far questo però abbiamo pensato di impostare un programma che non lavorasse solo ed esclusivamente su temi più strettamente connessi all'alimentazione, sì. ma che provasse a fare un intervento più complessivo che riguarda in generale lo stile di vita, le abitudini, coinvolgendo in questo sia i genitori sia la scuola. E questo programma evidentemente è stato elaborato proprio allo scopo di introdurre degli elementi nuovi che rendessero anche in qualche modo più affascinante la partecipazione da parte dei ragazzi. Le regole sono poche. Noi abbiamo sostanzialmente cominciato a lavorare sulle abitudini. Sì. E abbiamo però, prima di cominciare questo lavoro, voluto fare una fotografia di quella che era la situazione. Questa fotografia non è stata fatta solo tenendo conto di quelle che sono le variabili mediche, cioè le variabili antropometriche. Comunque faccio presente che tutti i ragazzi, più di 600 che sono entrati nel progetto, sono stati visitati, pesati e misurati. Ma abbiamo voluto entrare proprio nel merito delle abitudini, distribuendo un questionario molto preciso, sì, con 21 items, sia per gli alunni sia per i genitori, in cui cercavamo di fotografare le abitudini quotidiane di questi ragazzi, dal fatto di fare o meno la colazione, di fare o meno attività sportiva, il consumo di alcuni cibi particolari, per esempio quelli ricchi in zuccheri semplici, e poi ancora come si recano a scuola, tutta una serie di condizioni. Siete entrati nella loro vita. Siamo entrati nella e loro professore, vita. Entrate anche con dei messaggi, con degli SMS, sì, vero? Perché qual è un SMS, ad esempio, tipo? Per esempio, questa mattina ti sei ricordato di fare colazione, oppure ancora mandiamo degli SMS dicendo: ricordati che il gelato lo puoi mangiare una volta ogni tanto e non tutti i giorni, oppure ancora ricordati che camminare un certo numero di passi al giorno aiuta la salute, ti aiuta a farti sentire più in forma. Quindi dei messaggini che avevano lo scopo di rinforzare sostanzialmente le indicazioni che noi abbiamo dato a questi ragazzi attraverso una metodologia più tradizionale, che è stata quella di lezioni collettive fatte in classe con la presenza anche degli insegnanti. Sarebbero comodo anche a noi, professore, questi messaggini. Yolanda, cosa direi, dici? Parecchio. Sì, sì, professore, sì, sì, ci mandi un messaggio, anche un SMS anche a noi. Molto volentieri. Ma c'è un po' un aspetto nuovo di questa indagine rispetto a quelle di cui tante volte leggiamo e sentiamo parlare. Qual è? Sì, l'aspetto nuovo di questa indagine è che noi non abbiamo voluto limitarci a fotografare la situazione e a cercare di dare degli elementi utili per cambiare eventualmente abitudini scorrette. Sì. Ma abbiamo proprio disegnato il progetto, che durerà 5 anni, per poter verificarne direttamente le ricadute, cioè in altre parole questo non è uno studio epidemiologico ma è uno studio di intervento in cui però ci siamo dati degli elementi di implementazione, cioè per validare il fatto che il nostro intervento sia stato appunto efficace oppure no. E questa è una cosa relativamente nuova, perché nei campi della nutrizione molto si fa dal punto di vista educativo e certe volte anche molto bene. Tuttavia mancano spesso delle verifiche per vedere poi se un intervento sia stato effettivamente utile. Vorrei un commento da una mamma e dalla professoressa Vignolo che abbiamo in linea. Veronica. Ma io stavo pensando, volevo fare una domanda al professore. Siccome il problema delle madri è la mancanza di controllo sul figlio adolescente, perché a un certo punto lui cresce e tu cosa ha nel piatto non lo sai più quando esce di casa, naturalmente, ma tramite con i vostri strumenti di ricerca siete riusciti a scoprire cosa mangiano fuori pasto i ragazzi di quell'età? Noi abbiamo nel questionario introdotto delle voci apposta per la valutazione dei fuori pasto, però il problema che lei solleva è un problema assolutamente, direi, indispensabile. La nostra concezione, direi, ciò che ha mosso me e il mio collaboratore, il dottor Malavazos, che è un po', diciamo, l'anima pratica del progetto, è proprio quello di cercare di rendere questi ragazzi più consapevoli. In generale, quando si parla di lottare contro l'obesità, è assolutamente indispensabile un processo di tipo cognitivo-comportamentale in cui il paziente si rende conto che è protagonista delle scelte che farà. Assolutamente. Io credo che quando si parla di ragazzi di questa età, cominciare a in qualche modo esaltare la loro capacità di protagonismo e quindi anche di scelta critica rispetto agli alimenti sia una cosa di fondamentale importanza. Sì, è un modo anche per farli crescere. Professore, si ferma un attimo che voglio anche un commento della professoressa Vignolo. Siete colleghi, state così facendo dei progetti molto interessanti per la salute dei nostri figli, anche se in età diverse e con modalità diverse. Andiamo alla viabilità e poi torniamo insieme. Professor Morricone, le ho rubato ancora un po' di tempo perché volevo così avere anche un parere della professoressa Vignolo. Siete colleghi, lavorate sullo stesso campo. Professoressa Vignolo. Ma quello che ha detto il professor Morricone è musica per le mie orecchie. Noi da 10 anni stiamo avendo un approccio cognitivo comportamentale, siamo quelli che hanno sviluppato quel progetto Mi piace piacermi, l'abbiamo descritto, ha fatto risultati molto positivi e questa è la via che dobbiamo intraprendere sicuramente nel futuro per affrontare questo problema. Professore, allora, tra poco ci saranno dei dati? Verrà a raccontarceli qui? Posso già invitarla? Certamente, io mi prendo già l'impegno di venire col mio collaboratore, il dottor Malavazzo. Devo dire, così come piccola chicca, perché i dati sono in fase di elaborazione, che per esempio risulta, e questo credo che sia molto interessante, che per l'uso per esempio dell'SMS ha avuto una ricaduta positiva, così come pure la distribuzione del contapassi, che ha fatto sì che i ragazzi potessero verificare quanti passi facessero, ha avuto una ricaduta positiva. Quindi verosimilmente l'impiego di questi strumenti, chiamiamoli così, tecnologici, ma della vita di tutti i giorni dei ragazzi, è una strada molto utile e sicuramente percorribile. Grazie professor Morricone per essere stato con noi, l'aspettiamo presto. Intanto, per gli ascoltatori di Essere Benessere con figli adolescenti e qualche problema, dubbio, scriveteci e noi approfitteremo dell'equipe del professor Morricone, a cui manderemo le vostre mail per avere una risposta. La professoressa Vignolo rimane con noi e anche il Gaslini di Genova è a vostra disposizione per bambini di fascia d'età più piccoli. Voi vi occupate infatti, professoressa, dell'età delle elementari, grosso modo, vero? Sì, fino ai 12 anni più o meno. Ecco, per cui finito il Gaslini entra in campo San Donato. Ma c'è un problema che viene sollevato da molti ascoltatori, è che l'inizio della giornata per i bambini, abbiamo parlato proprio una trasmissione qualche settimana fa sulla prima colazione, è un problema per i grandi, ma diventa anche un problema per i più piccoli. Noi abbiamo sentito i diretti interessati. Elisa, frequento la quarta elementare. A colazione mangio biscotti con latte freddo. A merenda mangio crackers. Invece vorrei mangiare panino con la Nutella. Diana, frequento la quarta elementare. A colazione mangio la ciambella che fa la mamma. A merenda mi porto i taralli. Se potessi esprimere un desiderio, mangerei una fetta di torta. Io mi chiamo Roberta, frequento la quarta elementare. Io mangio a colazione una brioche. Nello zainetto metto anche lì sempre una brioche. Se potessi scegliere, all'intervallo mangerei una focaccia. Marco, frequento la prima media. A colazione mangio latte e cereali. Nello zaino merenda porto i crackers e un succo. Sono soddisfatta della mia merenda così com'è. Riccardo, frequento la seconda elementare. A colazione mangio una brioche. All'intervallo di scuola mangio una brioche e bevo il tè. Ciao, passo e chiudo. Ciao, passo e chiudo. Riccardo è uno che sa la sua. Abbiamo anche Gianni da Torino, abbiamo 3 minuti alla chiusura della trasmissione. Gianni. Sì, buongiorno a lei. A disposizione a tutto. La professoressa Vignolo, lei con la consulenza delle mamme blogger, qual è il suo problema? Fantastico. Bimbo di 9 anni. Sì. Da 3-4 anni a questa parte ha tendenzialmente cominciato ad ingrassare. Lui, noi accuratamente evitiamo qualunque tipo di dolciume se non le fette biscottate con la marmellata al mattino, 3 fette biscottate ed eventualmente un succo di frutta ogni tanto durante la giornata, un brick. Gli piace mangiare. Noi lo teniamo abbastanza sotto controllo, mangia verdure, mangia tutto, però io non ho mai fatto altri tipi di indagine, che ne so se devo fare indagini diagnostiche a questo punto. Si muove il suo bambino, fa attività sportiva, gioca, va a scuola. Fa calcetto una volta alla settimana e la ginnastica a scuola, però ha anche un problema di asma, quindi limitatamente, voglio dire, compatibilmente a questo problema si muove. Però sì, non si muove, anche perché i bambini asmatici, ormai le ricerche lo dimostrano, non possono assolutamente fare attività sportive, devono farla. Professoressa Vignolo, lei che cosa consiglierebbe a Gianni e a tanti ascoltatori che mi mandano dei messaggi dicendo il mio bambino lo faccio mangiare bene, comunque vedo che è sempre rotondo, non scende di un etto. Ecco, in sostanza, sì, rapidamente. Dunque, la prima domanda che farei a papà è, ma c'è qualcun altro in famiglia che è un po' cicciottino? Perché insomma i geni dicono la loro. Un pochino di costituzione. Okay. L'altro aspetto, e questi bambini bisogna un po' rispettare la loro crescita. L'altro aspetto, ok, alimentazione sana, stile di vita attivo, però non restringere troppo l'alimentazione. Noi abbiamo dentro il nostro corpo un sistema endocrino metabolico che è in grado di funzionare benissimo in risposta ai segnali di fame e di sazietà. Dobbiamo rispettarlo. Restringere l'alimentazione significa rendere certi tipi di cibi o comunque mangiare troppo interessante, troppo interessante, no? E quindi a volte stabilire delle regole troppo rigide rischia di essere controproducente. Questo è stato dimostrato da fior di evidenze scientifiche, un po' sotto gli occhi. La domanda di Gianni, e anche immagino interesse agli ascoltatori in genere, di fronte ad un bambino che non ha casi in famiglia di obesi, ma si muove, fa un'attività normale, ha uno stile di alimentare più o meno corretto, è il caso di procedere a fare degli esami, verificare qualche, fare un esame del sangue, andare a fondo del problema, oppure bisogna dargli tempo e poi... No, bisogna dargli tempo, monitorizzare la crescita e, come dicevo prima, vedere che non vada fuori pista, perché ognuno di noi ha il suo modello di crescita. Allora, io ricordo alle mamme in ascolto di scriverci, possiamo mandare le vostre mail e le vostre richieste ai nostri esperti, che sono il Gaslini di Genova e il San Donato, il Policlinico San Donato, alle mamme che sono qui con me. Continueremo la nostra discussione sui vostri blog. Molto volentieri. Possiamo. Certo. E riprenderemo ad occuparci dei nostri bambini con le nostre mamme Veronica e Yolanda il secondo martedì del prossimo mese. Vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi. Buona giornata da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.